tutti cercano i loro propri interessi. La quale, dopo avermi pazientemente ascoltato, parlavo del Vangelo con una persona. Inaspettatamente mi rispose: «Io ho letto più volte la Bibbia e non accetto ciò che Dio dice tramite il profeta Malachia. Dio si deve vergognare perché ha detto: ecco, io sgriderò il vostro seme e spargerò escrementi sulle vostre facce, gli escrementi delle vostre feste solenni, e voi sarete portati via con questi». Malachia 2, 3. Chi si crede di essere? Ha continuato il mio interlocutore. Meno. È vero che è Dio e può fare quello che vuole, ma gettare gli escrementi in faccia è un gesto che io non accetto. Poiché ero giovane nella fede, sono rimasto impietrito, ma una simile verità e una reazione del genere mi hanno fatto riflettere molto. A distanza di anni, posso capire ciò che Dio ha detto e la reazione dell'uomo. Dio non getta gli escrementi in faccia a nessuno, ma poiché gli israeliti per millenni hanno usato le feste religiose in modo ipocrita, per poi fare quello che volevano, per far comprendere loro il disprezzo da lui provato, Dio li avrebbe resi prigionieri di altri popoli, i quali, per spregio verso gli ebrei, avrebbero gettato loro in faccia gli escrementi. Se non accettiamo questa sua sovrana volontà e questo suo modo di procedere, dovremmo anche discutere l'immanes, sofferenza patita da Gesù Cristo quale suo figlio. In merito alla reazione dell'uomo, con il passare del tempo, ho raggiunto la convinzione che della Bibbia uno ne fa uso o abuso a proprio piacimento. Sì che quando qualcuno vi vuole trovare un appiglio, tanto per non credere in Dio, quanto per rifiutarne la signoria nella propria esistenza nel caso ci creda, riesce a scovare la frase che fa il suo caso. In questo modo la Bibbia diventa una scusa per raggiungere i propri obiettivi. Ma Dio conosce il cuore di ognuno. Personalmente, quando per le prime volte, da incredulo, leggevo la Bibbia e trovavo frasi per me assurde, dicevo nel mio cuore: «Dio mio, questa è una cosa assurda, ma sono io che non comprendo. Fammi capire ciò che hai detto». Col tempo, ho poi compreso che il Dio che ci ha creati a sua immagine e somiglianza fa dei ragionamenti e ha comportamenti molto più umani della nostra stessa umanità. Perché, per quanto se ne dica, non fa soffrire l'uomo e stirpargli delle confessioni, come in tempo di guerra ai nemici, e neppure concepisce un essere umano per abortirlo, come fanno migliaia e migliaia di donne. È vero che ciò che succede naturalmente, sofferenza e aborti, è nella volontà di Dio. Se non fosse così, sarebbe il male a governare il mondo. Ma ci sono altri fattori da tenere presente, uno dei quali, che l'uomo non vive in armonia con il creato, il quale a sua volta si ribella. Perché queste riflessioni? Perché devo confessare che anch'io a volte ho trovato e trovo nella Bibbia espressioni che mi lasciano perplesso. Non sconvolto come il mio interlocutore, ma in grado di crearmi dei dubbi, come per esempio la seguente opinione di Paolo condivisa ai Filippesi. In merito a Timoteo: «Infatti non ho nessuno di animo pari al suo che abbia sinceramente a cuore quel che vi concerne, poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù». Filippesi 2, 20-21. Affermare che tutti cercano i loro propri interessi mi sembra un'opinione, se non offensiva, almeno tendente alla mancanza d'obiettività e d'amore, perché molte sono le persone che si adoperano per altri, alcuni addirittura fino ad arrivare al sacrificio estremo di dare la loro vita. Come prendere allora questa affermazione dell'Apostolo Paolo? Si è sbagliato? Se si è sbagliato, abbiamo allora un'altra prova che la Bibbia annuncia il falso. Ancora una volta occorre avvicinarsi al testo biblico con la dovuta cautela, prima di emanare sentenze. Per prima cosa dobbiamo distinguere l'istinto dalla volontà. Questa separazione è il presupposto per comprendere tante azioni dell'uomo. Se l'istinto, come lo definisce il vocabolario, è un impulso o una tendenza innata che provoca negli reazioni caratteristiche animali e nell'uomo comportamenti consistenti, sostanzialmente fisse e immediate, a determinate situazioni, allora molte azioni dell'uomo e degli animali sono indipendenti dalla volontà. Se negli animali e nell'uomo rileviamo istinti comuni come quelli dell'autoconservazione, del possesso, dell'aggressività, quello sessuale, del potere e dello sviluppo, in molti comportamenti dell'uomo non vi è proprio nulla di meritorio, come non vi è nulla di meritorio nell'animale. Ma nella razza umana, oltre all'istinto, vi è la libertà di scelta, la scelta del bene e del male. Questo è ciò che rende diverso l'uomo, come razza umana, dagli animali. Una risposta, o in diversità, in relazione alla quale chi crede all'evoluzione non ha spiegazioni. Proprio per questa libertà di scelta, potremmo dire che se non tutti cercano i loro propri interessi, qualcuno lo fa. Non credo che sia saggio ammettere subito che qualcuno cerca anche l'interesse altrui, se prima non si fanno alcune considerazioni. Innanzitutto essere filantropi, cioè avere quell'attitudine che spinge a fare il bene al prossimo, non è sinonimo di puro e vero altruismo, perché gli psicologi hanno più volte affermato che si può spendere l'intera vita per il bene del prossimo, motivati dall'egoismo. Credo che questa opinione non sia meno offensiva di quella dell'Apostolo Paolo. Com'è possibile essere egoisti quando si compie un'opera buona nei confronti del prossimo, quando quell'azione si compie per se stessi e non per il prossimo? Come ha testimoniato una moglie, accudisco il marito. Faccio da moglie e da serva in tantissime cose, non per lui, ma perché io sento il bisogno di farlo. Questa sposa, ogni volta che compie i suoi doveri, è soddisfatta. Lo dimostra il fatto che a lei non interessa se poi il marito ne ha pagato. La soddisfazione di questa moglie non è cercare l'interesse del marito, ma il proprio. Una finezza della vita, questa, molto più frequente di quanto non sembra. Evidentemente l'Apostolo Paolo l'aveva capito perché, parlando dell'amore, cioè quell'atto di altruismo rivolto all'altro, disse: «E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo per essere arso, ma non ho amore, tutto questo niente mi giova». Il che vuol dire, posso spendere una vita intera per il prossimo ed essere egoista, cioè cerco il mio proprio interesse. Se si è coscienti di questo aspetto umano, si è in grado di vedere l'esistenza come meno caritatevole di quello che si pensa. Non credo di sbagliare se dico che l'emblema dell'altruismo del XX secolo sia stata Maria Teresa di Calcutta, la quale per il suo operato a favore del prossimo ha pure ricevuto il premio Nobel per la pace. Un altruismo disinteressato, dopo aver compreso che è possibile vivere una vita consacrata per il prossimo per egoismo, è difficile dare dei giusti giudizi, ma più volte è stato detto, sia per televisione sia da giornalisti, che Maria Teresa era atea e cercava Dio. Con una vita così religiosa sembra proprio assurdo, ma chi conosce l'ambiente religioso sa che tutto è possibile, come è stato possibile che uno dei discepoli, Giuda l'Iscariota, avesse venduto Gesù a dei falsi e ipocriti religiosi, i quali lo condannarono a soffrire tramite uno dei supplizi più atroci dei suoi tempi, la crocifissione. Si notano pure uomini impegnati nella conduzione di comunità che danno anima e corpo per le loro pecore, senza rendersi conto di svolgere questo ingrato servizio. Uso questo termine perché avendolo svolto per 15 anni so cosa comporta. Solo per sentirsi realizzati e per avere un senso di potere e di autorità. Ne ho preso maggiormente coscienza quando un intraprendente capace giovane si era proposto alla guida della chiesa alla quale appartenevo, per volerla, come disse, servire. In quel frangente, vedendo tutte le persone accondiscendenti ma nutrendo dei forti dubbi sulla sua candidatura, dissi: tutti i dittatori sono diventati tali, proponendosi di servire. Come puoi conoscere qual è il motivo per cui vuoi servire la Chiesa? In breve tempo questo bravissimo giovane se ne andò dalla comunità, per fondarne un'altra, dove ovviamente svolse la mansione di il conduttore. Dobbiamo ammetterlo, non cercare il proprio interesse in quello che si compie è molto ma molto difficile. Lo dimostriamo in modo particolare quando vantiamo delle pretese nei confronti di coloro che abbiamo servito. Parliamo del legame più intimo e difficile, il matrimonio. Se all'inizio del matrimonio tutto va bene, spesso, è perché non ci sono state molte occasioni per svolgere azioni generose o altruistiche. Ma con il passare del tempo, inconsciamente o no, nasce in noi l'esigenza di vantare dei diritti morali. Se poi possiedo più virtù del mio coniuge, apriti, o cielo. Nel momento critico, in una disputa importante, ecco uscire dalle nostre labbra le fatidiche frasi: io che ti ho fatto, io che ti ho servito. Non ricordi come mi sono comportato con te? Certo. Fino a quel momento siamo stati convinti di aver cercato l'interesse del nostro amato coniuge, ma ora vantiamo un diritto scaturente dalla nostra disinteressata abnegazione? Se il matrimonio è la scelta di servire disinteressatamente un altro, quali pretese posso avanzare? O forse il matrimonio non lo vediamo così? Che tutti cerchino i loro propri interessi è una verità che non devi annullarne un'altra. Vi è una sola categoria di persone in grado di cercare anche l'interesse degli altri, ma che non si nota. Innanzitutto, se queste persone non cercano solo i loro interessi, non è perché sono virtuose. Se fossero virtuose, allora chi non lo è non avrebbe colpa nel cercare solo i propri interessi. Se non sono virtuose come tutti gli altri uomini, ma si comportano virtuosamente, bisognerebbe concludere che si tratti di persone veramente uniche. Niente però di tutto questo. Se ci sono persone, uomini e donne, che non cercano solo i propri interessi, è perché obbediscono a Dio, il quale ha ordinato: non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Filippesi 2:4. Però occorre aggiungere: molte persone hanno questo nobile desiderio di cercare l'interesse del prossimo, ma per quanto sia forte la loro volontà, non ne sono capaci. E questo è normale, perché essere in grado di cercare l'interesse degli altri, mettendo da parte il proprio, è veramente un atto non umano ma divino, cioè proveniente da Dio. Perché allora ci sono persone in grado di compiere questa precisa volontà di Dio e altri no? Sempre per lo stesso principio. Chi è in grado di cercare l'interesse degli altri si trova in tale stato perché prima non ha cercato il proprio interesse egoistico per ciò che riguarda il suo futuro eterno. Infatti, l'uomo naturale, cioè colui che non possiede la persona dello Spirito Santo, vive un'esistenza volta anche a cercare il bene del prossimo. Spesso è un filantropo come Maria Teresa di Calcutta, ma compie queste opere per ottenere un favore da Dio, cioè per meritare la salvezza eterna. Opere, quindi, tese a cercare il proprio interesse. Questo è il dramma dei religiosi e di molti moralisti. Mentre chi pone una incondizionata fede salvifica nell'opera di Gesù Cristo senza cercare il Nuovo Testamento eresse meritorio, riceve lo Spirito di Dio, il quale lo rende capace di non cercare unicamente il proprio interesse. Perché lui sì e gli altri no? Perché, prima di tutto, con lo Spirito di Dio, il credente ha la capacità di comportarsi come tale. Poi, perché solo chi è pienamente Nuovo Testamento e APPAG Antico Testamento O è in grado, anche dal lato umano, di cercare sempre ciò che torna a vantaggio del prossimo. Chi è consapevole che i suoi peccati passati, presenti e futuri sono tutti perdonati? Chi ha ricevuto tale perdono di Dio per grazia, cioè senza opere meritorie? Chi è consapevole di tutte le ricchezze che possiede, quelle materiali e quelle spirituali, vivendo in questa pienezza, con gioia e desiderio, cerca l'interesse degli altri, perché i doni di Dio, divisi e condivisi, moltiplicano. Come disse Gesù, ci è più gioia nel dare che nel ricevere. Ecco perché non cerco solo il mio interesse. 20121117 Ellero,